Lei sposa questa idea, questa fotografia delle due Italie, quella adattiva che voi avete fotografato in un rapporto di 2 giorni fa, in cui un italiano su 3 abita con la mamma, il 50% abita vicino ai parenti, ci si porta il cibo da casa al lavoro, ormai siamo arrivati al 15%, in cui metà preferirebbe vivere in un luogo dove le persone si conoscono e si aiutano, e poi un'altra Italia che insomma sembra completamente ignorare il cambio epocale a cui stiamo assistendo. Ma diciamoci la verità, l'Italia maggioritaria è la prima, fa quella che dice lei, cioè un'Italia che durante la crisi, a colpa della crisi, ma credo anche recuperando vecchi modi di vita, io ho usato l'anno scorso nel rapporto quest'anno del Censis che l'Italia ha uno scheletro contadino, quindi in qualche modo lo scheletro contadino nel momento in cui la crisi si è fatta più dura è uscito fuori la capacità di una certa sobrietà, di un certo controllo dei consumi, di un tentativo di spendere di meno, di un tentativo di vivere bene la famiglia e la realtà locale. Questa è l'Italia che in qualche modo è uscita fuori in questi anni. Ed è un'Italia che noi abbiamo chiamato l'Italia della prossimità. Cioè l'Italia della prossimità? Della prossimità, cioè dove vivere il più prossimamente possibile insieme agli altri è un fatto fondamentale. Quindi è l'Italia che vuole vivere, che con 15 minuti a piedi vuole andare in chiesa, vuole andare a lavorare, vuole andare al cinema, vuole andare al ristorante, vuole portare i figli a scuola. L'Italia proprio, alcuni potrebbero dire rattrappita, no, perché poi non è un rattrappimento chiuso, invece è una decisione precisa di lavorare in una maniera che sia la più vicina possibile alla tradizione, se volete, dei vecchi borghi italiani, dei paesi italiani, della vita in comune, del vicinato, del sostegno con la famiglia e gli amici abbastanza a portata di mano. Questa è un'Italia che combina il low cost che è la cosa più moderna che sia arrivata in Italia, con la tradizione più antica, probabilmente millenaria, del rapporto familiare e della prossimità di vicinato. È questa l'Italia che in qualche modo, non dico sta vincendo, ma si è andata affermando in questi ultimi. Si sta adattando. Che non è solo un adattamento, l'adattamento è una cosa passiva, c'ho il vento che corre e io mi acquatto, no, questa è una cosa più attiva, più cosciente, più consapevole e per certi versi anche più, mi lasci dire, non dico più felice, ma certamente più allegra.